Calunnie e tentazioni, la prova inevitabile dell'Apostolo. Non vi è opera buona che si compia senza sofferenze, come non v'è redenzione senza spargimento di sangue. I santi stessi non hanno fondato nulla di grande senza il patire. Di tutto ciò era ben convinto il curato d'Ars, che si flagellava con crudeltà e si imponeva digiuni rigorosi, pur di ottenere la conversione della sua cara parrocchia. Ma è vicino il momento in cui, per divina permissione, gli si preparano altri dolori, ancor più brucianti da parte della malizia più o meno cosciente degli uomini. Non si prendono di mira inveterati disordini e vizi accarezzati senza trovare opposizione, e a questa opposizione prevista il curato d'Ars si preparava. Se un pastore non vuole dannarsi, diceva, bisogna che allorquando gli capita un disordine in parrocchia metta sotto i piedi il rispetto umano e il timore di essere disprezzato ed odiato dai suoi parrocchiani. Fosse anche sicuro di essere messo a morte, quando discenderà dal pulpito, questo non lo dovrebbe trattenere. Un pastore che vuole fare il suo dovere deve avere sempre la spada in mano. San Paolo aveva già scritto ai fedeli di Corinto: «Ben volentieri mi consumo e mi consumerò per le vostre anime, dovessi pure, amandovi molto, essere meno amato da voi». Don Vianney non voleva dannarsi e i suoi parrocchiani non tardarono a persuadersene. Per vari mesi i fedeli che frequentavano la chiesa si sentirono piovere addosso dalla cattedra rimproveri, scongiuri e minacce quasi continui. Aveva un bel ripetere ogni volta che li vedeva snervati e sbadiglianti: «Quando io mi trovo con voi non mi annoio». Essi lo trovavano ingrato, e ciò nel loro linguaggio significava spiacevole e irritante. Il signor curato predicava a lungo, chiese un giorno Monsignor Convert al signor Demrie. «Sì, molto a lungo, e sempre sull'inferno. Batteva le mani e diceva: «Figli miei, siete perduti». Oppure si batteva il petto, e che petto aveva? Vi sono quelli che dicono che non c'è l'inferno. Ah, lui ci credeva. Più tardi, ottenuto nella parrocchia un miglioramento sensibile, presenterà il lato attraente della virtù piuttosto che la bruttezza del vizio. Per ora dà al suo gregge un quadro non certo lusinghiero. In tutto questo non v'è dubbio che, senza accorgersene, nei primi anni si lasciò qualche volta trasportare dal suo carattere sensibile, nervoso e impulsivo. Egli stesso aveva poi cura di spiegare al suo gregge che vi è una santa collera che viene dallo zelo con cui dobbiamo sostenere gli interessi di Dio. Non ammise mai le mezze misure e agì sempre, lo si deve riconoscere, più per dovere che per temperamento. Se non fu mai brutale quando era necessario mostrarsi conciliante e dolce, non fu neppure mai esitante allorché si richiedevano decisioni energiche. Aveva per il peccatore la più tenera compassione, ma ciò non gli impediva di essere senza misericordia per il peccato. I parrocchiani di Ars non tardarono ad accorgersi che il metodo di cura pastorale del curato Vianney era ben diverso da quello usato dai suoi predecessori, ed il primo effetto nelle famiglie fu la mormorazione contro di lui, ritenuto troppo severo. Un fanciullo non era stato giudicato degno della assoluzione, oppure si era vista ritardata la comunione. «È perché il mio», gemeva la madre, ferita nel suo amor proprio. E poi quel giovane curato non era troppo rigoroso anche contro i profanatori della domenica, contro i frequentatori delle osterie e contro gli appassionati del ballo? Naturalmente l'intrepido moralista si tirò addosso tutti gli osti del paese. Se quel prete non voleva vivere come tutti gli altri, a far suo, ma lasciasse almeno in pace gli altri. Questo era il responso pratico che davano tra un bicchiere e l'altro i filosofi di Ars. Sembra inverosimile, eppure vi furono anche persone veramente pie che durarono fatica ad abituarsi ai suoi metodi. Per ben 10 anni di angoscia, Caterina Lassagne, d'animo nobile, che sarà più tardi una delle sue più fervide ammiratrici, provò a suo riguardo timore e venerazione. Giunse perfino a pregare Dio di allontanare da Ars questo prete, la cui direzione le sembrava intollerabile, forse perché egli, volendola perfetta, non tollerava in lei nessuna venialità. E tale fu sempre il suo modo d'agire, che egli tenne con tutte le anime che ebbero per lui maggiore affezione. Così guidò per vie molto difficili la giovane Pignot, a lui devota, che godendo di una certa agiatezza aveva lasciato i suoi appartamenti di Lione per venire a stabilirsi presso la prova Renard. Approfittava di tutte le circostanze per mortificarla, per esercitarla nello spirito di rinuncia nelle grandi e nelle piccole cose, e giunse perfino a proibirle di assistere ai suoi catechismi. Non escludeva dalle sue opere di zelo l'abnegazione femminile, ma la voleva disinteressata e soprannaturale. I lamenti, i pettegolezzi delle persone che egli aveva rimproverate, dei penitenti o delle penitenti che aveva rimandato senza assoluzione, erano giunti alle orecchie dell'austero confessore, che non ne fece mistero. «Se un pastore, disse un giorno dopo violente invettive contro i cattivi esempi dei genitori, vuol far loro conoscere le loro colpe e quelle dei loro figli, essi vanno in collera, lo disapprovano, ne parlano male e lo contraddicono in mille modi. Se una persona, grida ancora, ha qualche difficoltà col suo pastore, che forse le ha detto qualche cosa per il bene della sua anima, lo odierà, ne parlerà male ed ascolterà volentieri dirne male. Di più, convertirà in male tutto quello che di lui si dice. Eccone un altro. Se non giudicate bene ammetterlo alla Santa Comunione, vi risponderà villanamente e vi serberà rancore, come se si fosse responsabili del male che egli ha fatto. Un'altra volta ancora sarà una persona a cui fu rifiutata l'assoluzione che si rivolterà contro il confessore, che ai suoi occhi sarà peggio di un demonio. In alcune famiglie l'animosità non cessò tanto presto e Don Vianney ne fece l'esperienza dolorosa al tempo della rivoluzione dell'anno 1830. Può fare meraviglia che le giornate di luglio abbiano avuto la loro ripercussione anche nel modesto villaggio di Ars, ma è verità. Sette suoi parrocchiani, che peraltro non godevano buona fama in paese, trovandolo troppo severo, si presentarono a lui invitandolo a lasciare la parrocchia. Il curato non conservò alcun risentimento per questo fatto e non ne parlò mai se non con dolcezza e solo fra gli intimi. Tuttavia, a questa prova fu molto sensibile. Le calunnie della gioventù viziosa. Ma in quel tempo nel suo cuore non si era ancora chiusa una ferita prodotta da un altro caso amaro. Abbiamo visto che le giovani di Ars, docili ai suoi ammonimenti, avevano finito per accettare le sue direttive. Alcuni cattivi soggetti, non della parrocchia, coadiuvati da quei giovani di Ars che non trovavano più complici ai loro disordini, se la presero col prete e tentarono di coprirlo col loro proprio fango. Attribuirono il suo colore pallido, la sua magrezza, non alle sue estenuanti macerazioni, ma a una vita di segreti disordini. Mescolarono il suo nome alle loro canzoni oscene, gli scrissero lettere anonime piene di ignobili ingiurie, affissero manifesti alla porta della canonica e di sera fecero gazzarra sotto la sua finestra. Ma questo non bastava ancora. Dio permette talvolta che le anime più pure siano vittime delle più odiose calunnie, e da questa tristissima condizione non esime neppure i ministri dei suoi altari. Essendo successo uno scandalo nel villaggio, una povera ragazza disonorata era divenuta madre in una casa vicina alla canonica, vi furono dei miserabili che ne approfittarono per offuscare la fama del servo di Dio. Fu una chiacchiera senza consistenza che la sua virtù fece tosto cadere, poiché nella sua condotta non si poté mai sorprendere nulla che meritasse il minimo biasimo o che potesse far nascere l'ombra del sospetto. Ciononostante, la sua porta fu imbrattata di lordure e per 18 mesi una persona l'insultò tutte le sere sotto le sue finestre, come se la sua fosse stata una vita di disordini. Sembra non gli dovesse venire risparmiata nessuna umiliazione e nessuna sofferenza morale. Nel 1823, facendosi il riordinamento della diocesi di Belley, Ars cessò di far parte dell'arcidiocesi di Lione e il curato Vianney passò alle dipendenze di Monsignor De Vie, a cui era affatto sconosciuto. Ne approfittarono i libertini che inviarono al prelato lettere anonime piene di livore e il prelato credette suo dovere di mandare il parroco di Trevaux a prendere informazioni sulla sua condotta. Non si sa come fu condotta l'inchiesta, ma è certo che servì a distruggere le voci infamanti. Ricordava forse questi fatti il santo negli ultimi anni della sua vita quando confessò: «Se giungendo ad Ars io avessi saputo tutto quello che vi dovevo patire, sarei morto sul colpo. In realtà visse ore di agonia. A un dato momento, ci fa sapere un testimone della sua vita, si sentì così oppresso dalle voci sinistre sparse sul suo conto che voleva lasciare la parrocchia, e l'avrebbe anche fatto se una persona di fiducia che lo avvicinava in quelle ore tristi non fosse riuscita a convincerlo che la sua improvvisa partenza avrebbe potuto dare credito alle voci infamanti. Si mise allora con maggior fiducia nelle mani di Dio e mentre nel suo cuore si sollevava la rivolta contro l'ignominia che aveva cercato di abbattere il suo onore sacerdotale, egli perdonò ai colpevoli, li trattò da amici e se avesse potuto colmarle di favori lo avrebbe fatto. Così si sa che prestò aiuto in un rovescio di fortuna ad una famiglia che lo aveva perseguitato. Uno dei membri di quella famiglia finì i suoi giorni in un manicomio e Don Vianney lo seppe, ma non ne parlò mai, anzi approfittò di tutte le occasioni per rendere ad essa nuovi servizi. «Dobbiamo pregare per loro», ripeteva il sindaco Mandì, indignato della insistenza di questi miserabili. Ad un prete che si lamentava di essere in balia dei suoi nemici dava questo consiglio: «Fate come me, io li ho sempre lasciati dire e così han finito per smetterla». Le anime sante trovano delizia in ogni contrarietà. «Io so», ha detto un altro testimonio, «che non solo Don Vianney ha sopportato con pazienza questi indegni trattamenti, ma che nel tollerarli provava una gioia tutta soprannaturale. Più tardi, egli medesimo chiamerà questo il tempo più bello della sua esistenza. Avrebbe desiderato che il vescovo, convinto della sua colpevolezza, lo allontanasse dalla parrocchia per dargli il tempo di piangere in solitudine la sua povera vita». Nel febbraio 1843 giunse a fare a molte persone queste sorprendenti confidenze: «Pensavo dovesse venire il tempo in cui sarei stato cacciato da Ars a colpi di bastone, sospeso dal vescovo e costretto a finire i miei giorni in prigione, ma non ho meritato questa grazia». E dopo le inchieste del suo decano di Trevaux, vedendo che Monsignor De Vie invece di allontanarlo da Ars era felice di lasciarvelo, gemeva: «Mi lascia qui come un cane alla catena, eppure mi si conosce». Ecco il santo. Il curato d'Ars si è elevato fino al grado della umiltà più eroica, che sta non solo nel distacco dagli onori, ma nel disprezzo dell'onore e della reputazione. Le pene morali non lo avviliscono, ma sono per lui uno stimolo. Sono, per così dire, l'aiuto di Dio che modella l'anima come lo scultore col suo scalpello modella la statua, spezzando il marmo. Una fama incensurabile. Certo, Don Vianney avrebbe potuto difendersi anche in pubblico, dal momento che in pubblico lo si colpiva, e più di una volta dovette essere consigliato in tal senso, ma preferì sempre piangere davanti a Dio e mantenere il silenzio. La sua vita, d'altronde, circondata di ammirazione, era una prova eloquente della sua alta virtù, e la maggior parte dei suoi parrocchiani, secondo le testimonianze che riprodurremo, lo stimava degno di ogni rispetto. Solo uomini ciechi potevano ascoltare l'odio fino al punto di gettare il sospetto e la calunnia sopra di lui, che nella sua giovinezza, qualche volta per un eccesso di delicatezza, aveva rifiutato di abbracciare la sua povera madre e che appariva sempre così riservato e modesto che non si permetteva neppure di toccare i fanciulli. Quando le bambine del castello lo avvicinavano festose con i loro fratelli, qualche volta egli accarezzava questi, mai le fanciulle. La sua attenzione scrupolosa su questo punto era così intransigente che egli giunse un giorno a rimproverare alcune fanciulle che si erano permesse di toccare la mano ad un ecclesiastico forestiero. Nelle sue malattie, il curato d'Ars non voleva avere cure se non dagli uomini. Con le donne, alle quali acconsentiva di prestargli qualche servizio, trovava modo, come sappiamo, di far fare unicamente per il Signore ciò che si faceva per lui. «Io non osavo quasi né guardarlo né parlargli», dice Caterina Lassagne, Mi sembra di averlo servito solo e sempre per l'amore di Dio e senza affezione naturale. Ogni volta che gli portavo qualche cosa, mi preparavo già ad essere rimandata. Si intuisce ora facilmente perché non accettasse una domestica. Le buone donne che qualche volta mettevano un poco di ordine nella canonica non dovevano mai venire se non quando egli era assente, e la loro reputazione era al di sopra di ogni sospetto. In presenza di donne che lo visitavano non si sedeva mai, e considerando la brevità della sua parola, la modestia del suo sguardo, la gravità del suo portamento, lo si sarebbe detto un angelo in carne umana. Una delle sue più assidue penitenti ha potuto dire di lui che col primo sguardo vi penetrava fino in fondo all'anima, ma poi non vi guardava più. L'individualità per lui non esisteva, si trattava sempre di un'anima che egli si sforzava di condurre a Dio. Non vi era però nel curato d'Ars né affettazione né ciò che si potrebbe chiamare pruderie. Infine egli stesso confessava che non avrebbe conosciuto il male se non fosse diventato prete e confessore. Solo il confessionale gli aveva rivelato la profonda miseria umana. Dopo tutto questo, è naturale che almeno nella parte sana della sua popolazione le maldicenze dette in suo danno da persone malintenzionate senza fede non poterono mai ottenere il minimo credito. I suoi confratelli di sacerdozio, seppure non riuscirono tanto presto a farsi di lui un'idea giusta, non prestarono mai orecchio benigno a queste deplorevoli dicerie. Anzi, dal 1822 in poi, egli godette sempre tra il clero la fama di santo. I suoi parrocchiani approfittarono di ogni circostanza per difenderlo. Udii qualche volta a testa Antonio Mandì, figlio del sindaco, uomini perversi che dicevano: «Il vostro curato è come tutti gli altri». Ed io risposi: «Vi ingannate di molto, perché è da tanto tempo che l'osservo e sempre ho trovato che è un santo. Ma il prete così indegnamente calunniato trovo difensori anche in mezzo ai miscredenti. Il dottor Thibault, medico di Trevaux, che più tardi si convertì ed aveva avuto occasione di visitare Don Vianney e di rendersi conto delle cause vere del suo sfinimento fisico, in un caffè di Trevaux, mentre dei superuomini tentavano di gettare dei dubbi sulla sua virtù, ebbe la lealtà di prenderne la pubblica difesa». La fine della tempesta. La tempesta passò e non si rinnovò più. Don Vianney aveva forse desiderato che continuasse, e questo era affar suo. Ma Dio, che solleva il povero dalla sua pena immeritata, non permise che l'onta gravasse più a lungo su di un prete che era destinato a portare fra gli uomini il buon odore di Cristo. Dopo l'inizio del pellegrinaggio, più nessuno osò mettere in dubbio la sua virtù, a persuadersi della quale bastava aver contemplato il candore angelico dei suoi occhi azzurri. L'attenzione della folla fu poi risvegliata anche meglio da altri fatti molto significativi. Un giorno del 1853, la madre di un sacerdote che ci ha riferito il fatto, la signora Gautey Duguers di Montchanin nella Saône-et-Loire, pregava nella chiesa di Ars, non lontano dal confessionale del santo. Ora, ella vide non senza emozione una donna che era arrivata da lungo tempo nel villaggio e che non poteva, malgrado i suoi sforzi, avvicinarsi al curato Don Vianney. Era una persona di cattiva vita e, nonostante le sue grida e le sue lacrime, non riusciva ad accostarsi al confessionale di lui. Già 25 anni prima era successo un fatto meraviglioso che, a proposito, ha la forza di un simbolo. Ogni anno la contessina di Ars era solita offrire al curato per la festa di San Giovanni Battista un mazzo di gigli. Un anno non le fu possibile offrire questo mazzo di fiori alla vigilia e lo portò al curato nel giorno della sua festa, in sagrestia. Don Vianney lo prese, ne ammirò la freschezza e l'arte con cui i fiori erano stati disposti e lo pose sulla finestra in pieno meriggio, quando il sole ardente della stagione avrebbe dovuto guastarlo in qualche ora. Invece, dopo 8 giorni, quei gigli avevano ancora tutto il loro splendore e tutto il loro profumo. Questi gigli, che ai primi ardori dell'estate conservano sia a lungo la candidezza delle loro corolle e la rigidità dei lunghi stami d'oro, non rappresentano forse assai graziosamente l'immacolatezza di una reputazione che un'ignobile malvagità non poteva offuscare? Il timore del giudizio di Dio. Le ingiurie degli uomini non furono le uniche prove che il sacerdote dovette sopportare durante i primi anni di apostolato. Mentre all'esterno lo assaliva la malevolenza, nell'interno dell'animo subiva un tormento d'altro genere. La sua grande fede nella provvidenza non valeva a fargli oscurare la vista di quella che egli chiamava la profonda miseria della sua vita, coi tremendi obblighi del suo ministero che gli ispiravano vera paura dei castighi di Dio. Fu come tentato di disperazione. «Mio Dio», gemeva, «fatemi soffrire tutto quello che volete, ma fatemi la grazia di non cadere nell'inferno». E passava dal timore alla speranza, e dalla speranza al timore. Non gli furono dunque ignote quelle ansietà ed incertezze per le quali non vi è il conforto della terra, cui più non si pensa, né quello del cielo, al quale non si è ancora giunti. Quelle ore di agonia, nelle quali l'anima si crede abbandonata completamente da Dio e per sempre. Era in questi momenti che in modo speciale desiderava fuggire per andare in qualsiasi remota solitudine a piangere la sua povera vita. Ma se la croce che lo opprimeva non era leggera, egli aveva imparato ad amarla e per questo gli diveniva più tollerabile. «Soffrire amando», diceva, «non è più soffrire. Al contrario, fuggire la croce è come restarne oppressi. Bisogna domandare l'amore alle croci, in questo caso esse diventano dolci. Ne ho fatto l'esperienza per 4-5 anni quando ero calunniato e contraddetto. Avevo allora quasi più croci di quelle che potevo sopportare. Cominciai a domandare l'amore alla croce e ne fui felice. Anzi, ho constatato che non c'è felicità che in questo». Così, quantunque una tempesta furiosa avesse assalito la sua anima, non ne aveva raggiunto la sommità in cui abitano la confidenza e la pace. Un giorno, ha detto Don Monnin, allora giovane missionario, gli chiesi se le sue pene non gli avessero mai fatto perdere la pace. «La croce», disse con un'espressione celeste, «la croce può forse far perdere la pace? Piuttosto, la croce porta la pace nei cuori. Tutte le nostre miserie stanno nel fatto che noi non l'amiamo». Si deve a questa sua fede inconcussa se il curato d'Ars ha potuto resistere allo scoraggiamento e compiere opere che non avrebbero potuto portare ad effetto altri preti, meglio datati di lui ma meno soprannaturali. Mostrando coi fatti qual grandezza morale e quali meriti si possono ricavare dalle umiliazioni di questa vita, egli continua a lavorare unicamente per Dio senza nessuna speranza di ricompensa umana. «Si opera molto più per Dio», diceva egli, «facendo le stesse cose senza piacere e senza gusto. È possibile che mi scaccino, intanto io aspetto e faccio come se dovessi sempre rimanere». La sua pazienza lo aiutava a sopportare il suo stato, ma frattanto queste lotte intime lo consumavano e durante l'estate del 1827 dovette acconsentire a recarsi al castello per subire la visita di un medico. Il dottor Timecourt si mostrò severo e prescrisse all'eroico penitente un regime migliore a fine di prevenire le affezioni nervose alle quali egli era soggetto e che potevano divenire croniche. «Oltre i mezzi della medicina che io gli prescrissi», aggiunge l'uomo della scienza nella sua minuta ricetta, «è bene che il curato si nutra di minestra con grasso o latte, prenda carne di pollo e di vitello, birra, frutta cruda e cotta, pane fresco, arrosto con burro fresco e miele, tè con latte zuccherato e molta uva ben matura». Nessuno fra coloro che lo avvicinavano ha saputo dire in che modo egli seguì le prescrizioni del medico, ma è probabile che non ne abbia fatto alcun caso. Acconsentì solamente, dopo questo consulto gratuito, a ricevere dalle mani della contessa d'Ars un involto di foglie di tè. Desiderio di cambiamento. Non aveva che 40 anni e si sentiva sfinito. Era sempre tormentato dalla febbre. Forse per la spossatezza fisica o per il disgusto morale. Il fatto è che verso quest'epoca, fine del 1827 e principio del 1828, domandò lui medesimo un trasferimento. Gli abitanti del castello di Ars, impressionati, fecero istanza presso Monsignor De Vie per impedire la sua partenza e la sua risposta si fece aspettare per molto tempo. «Io non credo», scriveva il 1 aprile 1828 il signor Gillet di Valbres a sua cugina di Garez, «che Monsignore concederà al reverendo il trasferimento prima d'aver chiesto informazioni sulle cause di una decisione simile. Poi, che cosa succederebbe della scuola?» La scuola in questione era la Casa della Provvidenza, opera che per tanto tempo era costata grandi fatiche al giovane curato e che sembrava stargli molto a cuore. Anche i conti del castello se ne interessavano. Ora la partenza del fondatore ne avrebbe compromesso l'esistenza. Ma ciò nonostante, Monsignor De Vie non respinse la domanda di Don Vianney e gli propose la parrocchia di Farens. Questa volta si trattava di una promozione ed era anche una risposta alle calunnie del passato. In questa parrocchia, vicina a quella di Ars, ma 5 volte più popolata, il santo avrebbe potuto fare maggior bene, fondare una nuova provvidenza, nella quale sarebbero stati accolti più fanciulli che nella prima. Dapprima esitò, ma poi credette meglio accettare, ed infine, riflettendo sulla sua povera miseria, subitamente cambiò idea. «Me disgraziato», diceva confidenzialmente alle direttrici della scuola, «stavo per acconsentire ad andare in una parrocchia grande, io che faccio fatica a resistere alla disperazione in una piccola», e scrisse al suo vescovo per significargli la nuova determinazione. Il vescovo di Belley, che ora conosceva lo zelo del curato d'Ars, aveva avuto buone ragioni per proporgli Farens. Nel secolo XVIII, questa importante borgata dell'Aisne aveva subito prove non comuni e la fede degli abitanti, che fino allora erano stati buoni cattolici, ne era rimasta profondamente scossa. Poco prima della rivoluzione, sotto l'ispirazione di 2 successivi parroci giansenisti, i fratelli Claudio e Francesco Bonjour, vi si era formata una strana setta, i Farenisti. Questi esaltati, le donne in testa, superarono gli eccessi dei flagellanti, facendo consistere la loro felicità nel farsi battere fino al sangue. La giovane Stefanina Thomason, cedendo a fanatiche suggestioni, aveva consentito ad essere crocifissa nella sua chiesa medesima. Simili pazzie, lo si comprende, non potevano avere altro risultato che l'immoralità e lo scetticismo. Nel 1828 la metà della parrocchia aderiva ancora alla dottrina dei fratelli Bonjour. Fu appunto per condurre alla chiesa questi figli troppo lungamente separati che Monsignor De Vie aveva pensato a Don Vianney, il quale, aiutato da un vicario, sarebbe stato quivi meno oppresso dal suo ministero. Certo, avrebbe continuato i suoi digiuni e le sue penitenze e per questo il cambiamento del posto non avrebbe ristabilito la sua salute. Ma perché il santo pensò di rifiutare il nuovo posto? Tremava al pensiero di non bastare al suo compito. I Farenistes erano ritenuti inconvertibili. A torto, ma perfettamente in buona fede, Don Vianney credette che qualsiasi altro sarebbe riuscito meglio di lui a guarirli dalle loro fisime. A Don Dubois, che fu nominato parroco di Farens nel 1834 e vi rimase 48 anni, un giorno diceva: «Monsignor De Vie voleva mettermi al vostro posto, ma io ebbi paura della setta. I pagani si convertono più facilmente che i giansenisti. Un giorno si presentarono a me 4 dei vostri parrocchiani per chiedermi se potevano salvarsi senza andare in chiesa, accontentandosi di pregare in casa. Miei amici, rispose loro, che pensereste voi d'un figlio che dicesse: amo molto mio padre, ma mia madre non la voglio vedere? Monsignor De Vie non insistette presso Don Vianney e senza fargli alcuna proposta lo lasciò nel suo piccolo villaggio».